ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza, era stato il 4 di maggio deciso nel Consiglio dei Decurioni di ricorrere per aiuto al governatore. E il 22 furono spediti al campo due di quel corpo che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città, le spese enormi, le casse vuote, le rendite degli anni a venire impegnate, le imposte correnti non pagate per la miseria generale prodotta da tante cause e dal guasto militare in specie. Gli mettessero in considerazione che, per leggi e consuetudini non interrotte e per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevano essere a carico del fisco. In quella del 1576, Averi, il governatore marchese d'Aemonte, non solo sospese tutte le imposte camerali, ma data alla città una sovvenzione di 40.000 scudi della stessa camera. Chiedessero finalmente quattro cose: che le imposizioni fossero sospese, come s'era fatto allora, la Camera desse danari, il governatore informasse il re delle miserie della città e della provincia, dispensasse da nuovi alloggiamenti militari il paese già rovinato dai passati. Il governatore scrisse in risposta condoglianze e nuove esortazioni. Dispiacergli di non poter trovarsi nella città per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella, ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di quei signori. Questo essere il tempo di spendere senza risparmio, di ingegnarsi in ogni maniera. In quanto alle richieste espresse, proverè a nel mejor modo che il tiempo, i necessidades presentes permitieren. E sotto un girigogolo che voleva dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. Il gran cancelliere Ferrer gli scrisse che quella risposta era stata letta da Decurioni con grande sconsuelo. Ci furono altre andate e venute, domande e risposte, ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni. Qualche tempo dopo, nel colmo della peste, il governatore trasferì con lettere patenti la sua autorità a Ferrer medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra, la quale, sia detto qui incidentemente, dopo aver portato via, senza parlare dei soldati, 1 milione di persone, a dir poco, per mezzo del contagio tra la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana e una parte della Romagna, dopo aver desolati, come si è visto di sopra, i luoghi per cui passò e figuratevi quelli dove fu fatta, dopo la presa e il sacco atroce di Mantova, finì con riconoscerne tutti il nuovo duca, per escludere il quale la guerra era stata intrapresa. Bisogna però dire che fu obbligato a cedere al duca di Savoia un pezzo del Monferrato, della rendita di 15.000 scudi, e a Ferrante, duca di Guastalla, altre terre della rendita di 6.000, e che ci fu un altro trattato a parte e segretissimo col quale il duca di Savoia suddetto cede Pinerolo alla Francia, trattato eseguito qualche tempo dopo sotto altri pretesti e a furia di furberie. Insieme con quella risoluzione i Decurioni ne avevano preso un'altra, di chiedere al cardinale e al civescovo che si facesse una processione solenne portando per la città il corpo di San Carlo. Il buon prelato rifiutò per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che, se l'effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in scandalo. Temeva di più che, seppur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto. Se non ce n'era, il radunarsi tanta gente non poteva che espandere sempre più il contagio, pericolo ben più reale. Che il sospetto sopito delle unzioni s'era intanto ridestato, più generale e più furioso di prima. S'era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, unte muraglie, porte d'edifici pubblici, usci di case, martelli. Le nuove di tali scoperte volavano di bocca in bocca e, come accade più che mai quando gli animi sono preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. gli animi sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire e, come osservò acutamente a questo stesso proposito un uomo d'ingegno, le piace più d'attribuire i mali a una perversità umana contro cui possa far le sue vendette che di riconoscerli da una causa con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, erano parole più che bastanti a spiegar la violenza e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Si diceva composto quel veleno di rospi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peggio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo e d'atroce. Vi s'aggiunsero poi le malie, per le quali ogni effetto diveniva possibile. Ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva senza difficoltà. Se gli effetti non s'eran veduti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché. Ora l'arte era perfezionata e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai chi avesse sostenuto ancora che era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza ad una trama, passava per cieco, per ostinato. Seppur non cadeva in sospetto d'uomo interessato a stornar dal vero l'attenzione del pubblico, di complice, d'untore, il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione che ci fossero untori, se ne doveva scoprire quasi infallibilmente. Tutti gli occhi stavano allerta. Ogni atto poteva dar gelosia e la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza furore. Nella chiesa di Sant'Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto in ginocchioni, volle mettersi a sedere e prima, con la cappa, spolverò la panca. «Quel vecchio unge le panche!» gridarono a una voce alcune donne che vider l'atto. La gente che si trovava in chiesa, fu addosso al vecchio. Lo prendo per i capelli, bianchi com'erano, lo caricano di pugni e di calci, parte lo tirano, parte lo spingono fuori. Se non lo finirono, fu per istrascinarlo così semivivo alla prigione, ai giudici, alle torture. «Io lo vidi mentre lo strascinavano così», dice il Ripamonti, «e non ne seppi più altro. Credo bene che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento». Né tali cose accadevano soltanto in città. La frenesia s'era propagata come il contagio. Il viandante che fosse incontrato da dei contadini fuori delle mura maestra, o che in quella si dondolasse a guardare in qua e in là, o si buttasse giù per riposarsi, lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori. Al primo avviso di chi si fosse, al grido d'un ragazzo, si suonava a martello, s'accorreva. Le infelici erano tempestate di pietre o presi venivano menati a furia di popolo in prigione e la prigione, fino a un certo tempo, era un porto di salvamento. Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che c'era di riparabile in tal disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie, monatti, apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza, levar dalle case, dalle strade, dal lazzeretto i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare o guidare al lazzeretto gli infermi e governarli, bruciare, purgare la roba infetta e sospetta. L'impiego speciale degli apparitori era di precedere i carri avvertendo col suono d'un campanello i passeggeri che si ritirassero. I commissari regolavano gli uni e gli altri sotto gli ordini immediati del Tribunale della Sanità. Bisognava tener fornito il lazzeretto di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi d'infermeria. Bisognava trovare e preparare nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno. Si fecero a questo effetto costruire in fretta capanne di legno e di paglia nello spazio intorno del lazzeretto. Se ne piantò un nuovo tutto di capanne, cinto da un semplice assito e capace di contenere 4.000 persone. E non bastando, ne furono decretati due altri. ci si mise anche mano, ma per mancanza di mezzi d'ogni genere rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva. E non solo, l'esecuzione rimaneva sempre addietro dei progetti e degli ordini, non solo, a molte necessità purtroppo riconosciute si provvedeva scarsamente anche in parole. S'arrivò a questo eccesso di impotenza e di disperazione che a molte, delle più pietose come delle più urgenti, non si provvedeva in nessuna maniera. Moriva, per esempio, d'abbandono una gran quantità di bambini, ai quali erano morte le madri di peste. La sanità propose che si istituisse un ricovero per questi e per le partorienti bisognose, che qualcosa si facesse per loro, e non poté ottenere nulla. Si doveva, non di meno, dice il Tadino, compatire ancora agli decurioni della città, li quali si trovavano afflitti, mesti e lacerati dalla soldatesca senza regola e rispetto alcuno, come molto meno nell'infelice ducato, atteso che a giutto alcuno né provvisione si poteva avere dal governatore, se non che si trovava tempo di guerra e bisognava trattar bene gli soldati. Tanto importava il prender casale, tanto par bella la lode del vincere indipendentemente dalla cagione e dallo scopo per cui si combatta. Così pure, trovandosi colma di cadaveri un'ampia ma unica fossa che era stata scavata vicino al lazzeretto, rimanendo non solo in quello, ma in ogni parte della città insepolti nuovi cadaveri che ogni giorno erano di più, i magistrati, dopo aver invano cercato braccia per il tristo lavoro, s'erano ridotti a dire di non saper più che partito prendere. Né si vede come sarebbe andata a finire se non veniva un soccorso straordinario. Il presidente della sanità ricorse, per disperato, con le lacrime agli occhi, a quei due bravi frati che soprintendevano al lazzeretto, e il padre Michele si impegnò a dargli, in capo a 4 giorni, sgombra la città di cadaveri, in capo a 8, aperte fosse sufficienti non solo al bisogno presente, ma a quello che si potesse prevedere di peggio nell'avvenire. Con un frate compagno e con persone del tribunale dategli dal presidente andò fuori della città in cerca di contadini e parte con l'autorità del tribunale, parte con quella dell'abito e delle sue parole ne raccolse circa 200 ai quali fece scavar 3 grandissime fosse. Spedì poi dal lazzeretto Monatti a raccogliere i morti tanto che il giorno prefisso la sua promessa si trovò adempita. Una volta il lazzeretto rimase senza medici e con offerte di grosse paghe e d'onori a fatica e non subito se ne poté avere, ma molto meno del bisogno. Fu spesso lì per mancare affatto di viveri, a segno di temere che ci s'avesse a morire anche di fame e più di una volta, mentre non si sapeva più dove batter la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi per inaspettato dono di misericordia privata che, in mezzo allo stordimento generale, all'indifferenza per gli altri, nata dal continuo temer per sé, ci furono degli animi sempre desti alla carità. Ce ne furono degli altri in cui la carità nacque al cessar d'ogni allegrezza terrena, come nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere. Ce ne furono alcuni, sani sempre di corpo e saldi di coraggio, al loro posto. Ci furono pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non erano chiamati per impiego. Dove spiccò una più generale, più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza, fu negli ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza. Dove si pativa ce n'era. Sempre si videro mescolati, confusi, colanguenti, comoribondi, languenti e moribondi, qualche volta loro medesimi. Ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali. Prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di 60 parrochi della città solamente morirono di contagio, gli 8 noni all'incirca. Federigo dava a tutti, come era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. morta gli intorno quasi tutta la famiglia arcivescovile e facendogli stanza a parenti, alti magistrati, principi circonvicini che s'allontanasse dal pericolo, ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio e resistette alle istanze con quell'animo con cui scriveva ai parrochi: siate disposti ad abbandonar questa vita mortale piuttosto che questa famiglia, questa figliolanza nostra. Andate con amore incontro alla peste come a un premio, come a una vita quando ci sia da guadagnare un'anima a Cristo. Non trascurò quelle cautele che non gli impedissero di fare il suo dovere, sulla qualcosa diede anche istruzioni e regole al clero, e insieme non curò il pericolo, né parve che se ne avvedesse quando per far del bene bisognava passar per quello, senza parlare degli ecclesiastici coi quali era sempre per lodare e regolare il loro zelo, per eccitare chiunque di loro andasse freddo nel lavoro, per mandargli ai posti dove altri erano morti, volle che fosse aperto l'adito a chiunque avesse bisogno di lui. Visitava i lazzeretti per dar consolazione agli infermi e per animare i serventi. Scorreva la città portando soccorsi ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usci sotto le finestre ad ascoltare i loro lamenti, a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò, insomma, e visse nel mezzo della pestilenza, maravigliato anche lui alla fine d'esserne uscito illeso. Così, nei pubblici infortuni e nelle lunghe perturbazioni di quel qual sia ordine consueto, si vede sempre un aumento, una sublimazione di virtù, ma purtroppo non manca mai insieme un aumento, ed ordinario ben più generale, di perversità. E questo pure fu segnalato. I birboni, che la peste risparmiava e non atterriva, trovarono nella confusion comune, nel rilasciamento d'ogni forza pubblica, una nuova occasione d'attività e una nuova sicurezza d'impunità a un tempo, che anzi l'uso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle mani dei peggiori tra loro. All'impiego di monatti ed apparitori non s'adattavano generalmente che uomini sui quali l'attrattiva delle rapine e della licenza potesse più che il terrore del contagio, che ogni naturale ribrezzo. Erano a costoro prescritte strettissime regole, intimate severissime pene, assegnati posti, dati per superiori dei commissari, come abbiamo detto. Sopra questi e quegli erano delegati in ogni quartiere magistrati e nobili, con l'autorità di provvedere sommariamente a ogni occorrenza di buon governo. Un tal ordine di cose camminò e fece effetto fino a un certo tempo, ma crescendo ogni giorno il numero di quelli che morivano, di quelli che andavano via, di quelli che perdevano la testa, venner coloro a non aver quasi più nessuno che li tenesse a freno. Si fecero i monatti principalmente arbitri d'ogni cosa. Entravano da padroni, da nemici nelle case e, senza parlare dei rubamenti e come trattavano gli infelici ridotti dalla peste a passar per tali mani, le mettevano, quelle mani infette e scellerate, sui sani, figliuoli, parenti, mogli, mariti, minacciando di trascinarli al lazzeretto se non si riscattavano o non venivano riscattati con danari. Altre volte mettevano a prezzo i loro servizi, ricusando di portar via i cadaveri già putrefatti a meno di tanti scudi. Si disse che monatti e apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette per propagare e mantenere la pestilenza, divenuta per essi un'entrata, un regno, una festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede, come era prescritto a quelli per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, si introducevano nelle case a farne di tutte le sorte. In alcune, aperte o vuote d'abitanti, o abitate soltanto da qualche languente, da qualche moribondo, entravano ladri a man salva a saccheggiare. Altre venivano sorprese, invase da birri che facevano lo stesso, e anche cose peggiori. Del pari con la perversità crebbe la pazzia. Tutti gli errori già dominanti, più o meno, presero dallo sbalordimento e dall'agitazione delle menti una forza straordinaria, produssero effetti più rapidi e più vasti. e tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura speciale delle unzioni, la quale nei suoi effetti, nei suoi sfoghi, era spesso, come abbiamo veduto, un'altra perversità. L'immagine di quel supposto pericolo assediava e martirizzava gli animi molto più che il pericolo reale e presente. E mentre, dice il Ripamonti, i cadaveri sparsi o i mucchi di cadaveri sempre davanti agli occhi, sempre tra piedi, facevano della città tutta come un solo mortorio, c'era qualcosa di più brutto, di più funesto in quell'accanimento vicendevole, in quella sfrenatezza e mostruosità di sospetti. Non del vicino soltanto si prendeva ombra, dell'amico, dell'ospite, ma quei nomi, quei vincoli dell'umana carità, marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello, erano di terrore e, cosa orribile e indegna da dirsi, la mensa domestica, il letto nuziale, si temevano come agguati, come nascondigli di beneficio. La vastità immaginata, la stranezza della trama turbavano tutti i giudizi, alteravano tutte le ragioni della fiducia reciproca. Da principio si credeva soltanto che quei supposti untori fossero mossi dall'ambizione e dalla cupidigia. Andando avanti si sognò, si credette, che ci fosse una non so quale voluttà diabolica in quell'ungere, un'attrattiva che dominasse le volontà. I vaneggiamenti degli infermi che accusavano se stessi di ciò che avevano temuto dagli altri parevano rivelazioni e rendevano ogni cosa, per dir così, credibile d'ognuno. E più delle parole dovevano far colpo le dimostrazioni. Se accadeva che appestati in delirio andassero facendo di quegli atti che s'eran figurati che dovessero fare gli untori, cosa insieme molto probabile e atta a dar miglior ragione della persuasione generale e delle affermazioni di molti scrittori. Così, nel lungo e tristo periodo dei processi per stregoneria, le confessioni non sempre estorte degli imputati non servirono poco a promuovere e a mantenere l'opinione che regnava intorno ad essa. Cioè, quando un'opinione regna per lungo tempo e in una buona parte del mondo, finisce a esprimersi in tutte le maniere, a tentare tutte le uscite, a scorrere per tutti i gradi della persuasione. Ed è difficile che tutti o moltissimi credano a lungo che una cosa strana si faccia senza che venga alcuno il quale creda di farla. Ci furono però di quelli che pensarono fino alla fine, finché vissero, che tutto fosse immaginazione. E lo sappiamo non da loro, che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico. Lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono o lo riprendono o lo ribattono come un pregiudizio d'alcuni, un errore che non s'attentava di venire a disputa palese, ma che pur viveva. Lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione. «Ho trovato gente savia in Milano», dice il buon Muratori nel luogo sopracitato, «che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi». Si vede che era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. I magistrati, scemati ogni giorno, e sempre più smarriti e confusi, tutta, per così dire, quella poca risoluzione di cui erano capaci, li impiegarono a cercare di questi untori. Alessandro Benvenuti ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.